ci sono delle tappe molto importanti, quelle del Col du Galibier, ci sono le tappe di Tre Cime di Lavareto, quindi secondo me è un giro disegnato molto bene. Sì, lo stiamo facendo, primo, secondo, quasi sempre, e questa è la linea per provare a vincere il mondiale. Il gruppo è fantastico, mi stanno mettendo a loro agio e io sono veramente contento adesso. Tutti convocati di Carlo Genta. Cose di campo, sono finite lì. Vabbè, Compreso allora il andiamo. gestaccio della No, non ho Roma? fatto nessun No, gesto. no, no. Il naso me lo sono rotto, nelle orecchie non ho messo mai i tappi. Non sono diventato un poliziotto, nonostante questi piedi piatti. Non ho una gran voce, forse mi basterà. Lo so, non ho una gran voce, sarò sicuro mi si noterà. Perché una cosa io ce l'ho perfetta, e quella è il dito. E certo parlo nel terzo, non scherzo, sembra scolpito. Dico che sotto un certo punto di vista è il mio migliore amico. Ciao a tutti, Franco Piantanida, autore di questo programma, prendetevela con lui, Roberto Scaltritti in regia. Non è il giorno giusto per essere dissacranti, però, come sapete, notizie che arrivano ben più importanti di quelle che raccontiamo noi, ma non sarà mica colpa nostra se i Santi non giocano in Serie A. Se Santi che giocano in Serie A non ce ne sono. Delio Rossi è un allenatore che a me piace un sacco, lo ammetto, mi sta nella manica, lo considero uno dei più bravi allenatori italiani. E per questo, forse proprio per questo, quando va giù di testa ci resto particolarmente male. E considero le bugie che avete sentito molto peggiori del dito medio alzato al cielo e nei confronti di Burdisso, a quanto pare. Le notizie dicono che la Sampdoria lo ha multato, ha accettato di buon grado, ci mancherebbe altro, la multa devoluta in beneficenza all'ospedale Gaslini. Questo weekend ci ha lasciato un sacco di temi di discussione, calcistici che ci portano a comportamenti non proprio ortodossi, che ci portano ai cori di San Siro di ieri sera, che oggi Moratti ha stigmatizzato giustamente, ha detto speriamo che non si verifichino nel derby nei confronti di Balotelli, però purtroppo di ignoranti negli stadi ce ne sono un sacco, negli stadi in giro per le nostre città. Il calcio è pieno di persone anche di una certa età che perdono il senso della misura, appunto di chi alza il dito medio, poi dice no, io non ho fatto nessun gestaccio quando la fotografia sta già facendo il giro del mondo, ma c'è anche chi dice, e non voglio far politica anche qui, cronaca, il mio allenatore non capisce un cazzo, lo dice in dialetto veneto, poi dice, ah, ma era una battuta dovuta al momento, Allegri lì se l'è dribblata come faceva quando era sul campo con grande intelligenza e destro. Lasciamo perdere, se vogliamo, anche il gesto di Viviano che prende la maglia viola di Borja Valero, che Pirlo aveva scambiato dopo Juventus-Fiorentina. Pirlo va come normale sotto la curva dei suoi tifosi con quella maglietta sulle spalle, Viviano gliela prende, gliela butta per terra, perché non si fa così. Meglio se tornasse a fare l'eccellente portiere che è invece dell'Ultra. Lasciamo perdere Balotelli che zittisce lo stadio sardo, ma poveretti non sanno mai dove giocano. Lo scoprono il venerdì e poi, insomma, e poi si vedono zittire da Balotelli. Argomenti calcistici dicono che la Juventus è tornata, l'Inter riprende un po' di colore, magari Stramaccioni no, perché è sempre più pallido come un cencio, però prende punti importanti in un giorno in cui tutte le altre perdono o pareggiano, dico concorrenti dirette. E poi un altro argomento che mi interessa moltissimo, mi affascina moltissimo, non so voi, a proposito vi convoco tutti, come ogni giorno, 800 24 0024, questo è il vostro numero verde, il vostro contatto, perché siete sempre convocati, messaggi 349 238 6666. Beh, il pupone sta invecchiando, ragazzi, perché in un altro momento, cioè uno Osvaldo qualunque che va lì a rubargli il pallone del rigore del pareggio, gli mangia un braccio. Ieri glielo ha ceduto con fare un po' stramaccioni, stizzito, questo sì, ma è il minimo, e questa l'ha appoggiata in porta, quindi anche questo mi sembra un argomento discretamente interessante, ma ce ne sono poi molti altri su cui spero vogliate intervenire, perché questo weekend è stato anche quello dei ragazzi d'argento dello sci, da Paris a Nadia Fanchini, dell'Italia del rugby spazzolata dalla Scozia, di Errani e Vinci, che sono le donne delle meraviglie, perché ci permettono di battere quel che restava degli Stati Uniti, non era certamente la nazionale più forte, ma comunque di andare in semifinale di Fed Cup. C'è Siena, Montepaschi, che vince la sua quinta Coppa Italia, il suo ennesimo titolo, ma il futuro, basta leggere quel nome dello sponsor sulle magliette, capire quanto, e sapere quanto conta quello sponsor per il Montepaschi, per la Mensana Siena, per capire che nel futuro c'è una discreta nebbia. Dunque, cominciamo subito con gli ascoltatori, abbiamo anche diversi ospiti. Mimmo da Roma, buongiorno. Convocato da Roma, buonasera. Convocato da Roma, il pupone sta invecchiando. Non sono un tifoso romanista, sono intanto un tifoso sportivo, e volevo dare un grande in bocca al lupo a Carmelo Imbriani, prima di tutto. Poi volevo parlare della sfida scudetto Juve-Napoli. Sì. Volevo chiederle se diciamo in questo momento della stagione, secondo lei è più probabile che il Napoli venga risucchiato nelle terza, quarta o quinta, ed è un caso che si trovi lì? No, non credo sia probabile, ma anzi mi è piaciuto molto Mazzarri, che le ha provate tutte per vincere all'Olimpico di Roma contro un'ottima Lazio, sì, che non mi aspettavo così. Mazzarri le ha davvero provate tutte, questo è un segno di forza, è un segnale lanciato ai naviganti: noi non ci arrenderemo tanto facilmente, bravo Mazzarri. Non credo che il Napoli verrà risucchiato, credo però che la Juventus sia tornata, semmai era andata da qualche parte, che non fosse l'angolo di una condizione indurita dalla preparazione invernale. Mi sembra che dal punto di vista fisico la Juventus stia meglio, guarda caso c'è il Celtic domani. Quindi penso che i conti siano stati fatti. Saluto e ringrazio invece Giampiero Timossi, responsabile delle pagine sportive del Secolo XIX. Ciao Giampiero. Ciao, buongiorno a tutti. Come buongiorno. Stai? Tutto bene. Insomma, comincia un po' di neve anche qui. Oggi abbiamo traslocato a Sanremo per il festival, comincia a nevicare anche qui. Festival sotto la neve. No, in apertura dicevo che non è il giorno giusto per essere dissacranti, però meno male che sei dimesso il Papa, così almeno la notizia di Delio Rossi non è la prima notizia no, della giornata. No, però ci sta anche tra l'headline, come mi insegni, sì. Ci sta quel dito medio alzato, e soprattutto una bugia che è peggio della macchia, insomma. Sì, ha sbagliato, sbagliamo tutti, ma Delio Rossi ieri ha sbagliato due volte, no? Ha sbagliato quel gesto, però il gesto, insomma, chi obiettivamente, io ho un caratteraccio, chi non si è arrabbiato e non ha risposto in maniera assolutamente maleducata, succede. Poi la cosa importante dopo è non mentire, ma ammettere di aver sbagliato. Credo che l'errore vero di Delio Rossi sia stato quello. Sì. Poi andare a dire Rossi è recidivo, ha picchiato gli altri, ha cazzato gli Aici, quello fa parte un po' degli umori, del carattere, dei momenti di qualsiasi persona. Certo, chi ha la responsabilità di far parte, di partecipare, di essere un protagonista di un grande business, gioco, divertimento come quello del calcio, ha obiettivamente responsabilità maggiori, questo lo sappiamo, però insomma non bisogna tanto. Io credo che non fosse importante, non fosse neanche così fondamentale giudicare quel gesto sbagliato, ma in parte forse distintivo. Brutta la toppa, insomma. Sì. Brutta la toppa, grazie al cielo, come ci si poteva aspettare, io credo, da una società comunque che ha un certo modo di vedere il calcio, in questa società della Sampdoria e il presidente Garrone. Ecco, il giorno dopo poi insomma sono arrivate le scuse, la multa che sappiamo, sì, è stata accettata di buon grado, devoluta in beneficenza all'ospedale Gaslini, ma mi sembra il minimo. Senti Giampiero, ti chiedo un secondo di pazienza per il traffico e poi chiudiamo questo discorso su Delio Rossi e su questo weekend che su questo weekend, che non dico è stato quello degli insulti, ma dei gestacci, quello sì. Tutti convocati. Allora, io sono d'accordo con Giampiero Timossi, nostro ospite, sul fatto che un campo di calcio non è un ufficio bancario, non è un ufficio postale, che contano molti fattori, dallo stress che viene un po' troppo sbandierato, lo stress della panchina, conta l'adrenalina, conta l'essenza dello sport. Però, insomma, partendo da Viviano che butta per terra la maglia di Viola sulle spalle di Pirlo, ai cori di San Siro contro Balotelli che Stramaccione dice di non aver sentito, Moratti li ha sentiti, ha detto per favore che non succeda nel derby, a degli Orossi, a De Rossi che gli risponde, insomma, una domenica di insulti, e lasciando stare anche quel non capisce un cazzo indirizzato dal proprietario del Milan al suo allenatore. No, ma quello era in dialetto, dai. Boh, allora in dialetto, quindi non batte. Cioè, no, però c'è una cosa fondamentale. Ci sono, è fatto benissimo a sottolineare, no, tutti questi episodi. Il gesto di Rossi, a me non è piaciuto il dittone. Non mi è piaciuto assolutamente, e non vorrei essere travisato, non condivido assolutamente il fatto che lo stress possa provocare episodi di questo genere, ma mi è piaciuto ancora meno poi il modo in cui Dario Rossi è uscito dal campo, così come non mi è piaciuto l'episodio che ricordavi tu prima, no? Viviano che davanti ai tifosi della Fiorentina getta per terra la maglia della Juventus, che sulle spalle di un suo compagno la calpesta. Qui secondo me, in entrambi i casi, nell'incitare i tifosi o nel calpestare la maglia degli avversari, c'è un aggravante, credo, che è quella un po' dell'essere ruffiani. Credo che nell'essere ruffiani ci sia sempre qualcosa di assolutamente negativo e un qualcosa di peggio in più. Sì. Quindi questo è un atteggiamento sbagliato, sbagliatissimo l'atteggiamento di Viviano, che forse sperava di giocare con più continuità nella Fiorentina, che ha sempre sbandierato la sua fede per la Fiorentina, e poi alla prima occasione no, si rende protagonista di questo gesto che obiettivamente lì non c'era nessun tipo di provocazione da parte di nessuno. Come dicevi tu, è anche vero che le parole di Delio Rossi, che non è di De Rossi, che non è ovviamente uno stinco di santo, ma persona di grande valore e assolutamente rispettabile, però si è reso protagonista più di una volta di gesti di reazione, beh, insomma, anche lì forse, no, il montare la polemica in una maniera strumentale forse non è proprio la cosa migliore. Per restare in tema di giornata, che è senza peccato, scagli la prima pietra, De Rossi che ha dato un pugno in faccia a Mauri nel derby, non mi pare senza peccato, ma questa è un'altra storia che lasciamo ad altri programmi, insomma, quella del chi è senza peccato, caro. È un tema caldo oggi. È un tema caldissimo. Senti, ti ringrazio, com'è l'atmosfera a Sanremo, a parte la neve? Io non ci capisco nulla, ma essendo stato scaraventato con il mio grande piacere dal mio giornale, dal secondo, dallo sport qua, però spero di divertirmi, insomma, e spero soprattutto che si divertano in questi giorni i lettori. Cosa canta Prandelli? Montagne Verdi o qualcos'altro? Ah, non lo so, forse quello rientra nel discorso di una certa volontà di piacere un po' a tutti, che a me non piace tantissimo. Bravo. Però, sono punti di vista. Grazie, un abbraccio Giampiero. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Giampiero Timossi. Allora, io prima di parlare con i nostri convocati, 800 24 00 24, di cosa da dire ce n'è un sacco, voglio farvi sentire un po' di voci, perché il weekend è stato anche questo: mondiali di scia slalom, due ragazzi d'argento, a cominciare da Nadia Fanchini. Io non stavo facendo molto bene, solo due giorni fa ero disperata perché i risultati che tanto volevo non arrivavano ero un po' disperata, invece oggi ho fatto la mia gara, ho cercato di dare il 100% e alla fine mi è andata bene, per fortuna. Ecco, c'è stato un momento, una sensazione particolare in pista che ti ha fatto capire che stava arrivando questo podio? Ma guarda, sinceramente io ero molto soddisfatta di come ho sciato, ero molto soddisfatta perché mi sentivo bene e in più non ho sbagliato, come ho sempre sbagliato in prova. E ecco, lì dicevo, boh, tante volte quando ti senti troppo bene vuol dire che stai tenendo un po', quindi ho detto cosa ci devo fare, io alla fine più di così non potevo andare, no? E quindi ho detto mi sentivo bene, però poi alla fine il tempo mi ha dato ragione e tutto il resto anche mi ha dato ragione, quindi alla fine sono contenta. Questa era Nadia Fanchina al microfono di Dario Ricci, ma sentiamo anche Paris. È una grande soddisfazione. Ho sciato bene, sono arrivato qua al traguardo, ho visto il 2. Sì, ho rischiato un po'. Cioè, io non ho fatto la prova oggi, ho fatto solo la ricognizione per quello. Volevo mollare, ho rischiato un po', ma si deve essere al limite per fare le medaglie o arrivare sul podio. Sì, io do sempre tutto in gara, perché se no non vinci niente. Grandi ragazzi dello sci, Paolo Varese, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per la convocazione. Sempre, 800240024, tutti i giorni. Ascolti, io volevo sottolineare anche, visto che non l'ha fatto lei, che qualche deficiente fiorentino ha esposto un bel meno 39. Meno 39, ecco. Sì, lo so. Volevo chiederle, visto che giustamente ogni volta che qualche illuminato juventino si permette di fare qualcosa per Superga o per qualcos'altra cosa viene giustamente punita la società, non crede che anche in questo caso dovrebbe essere presa certamente, qualche posizione? Certamente sì, ci sono molte persone che sorvegliano ciò che succede dentro gli stadi, bisogna fermare la partita, quello striscione deve sparire. Speriamo che succeda. Quello striscione deve sparire, vergognoso, così come deve sparire anche quello, magari sull'altro fronte, quello juventino. Però vergognoso come non esistono negri italiani che Stramaccioni non ha sentito a San Siro. Adesso vi faccio top 3 imperdibile dichiarazioni migliori del weekend calcistico, poi sempre altri ascoltatori, sempre tutti convocati all'800240024. Medaglia di bronzo Andrea Azzoli, neo allenatore giallorosso. Va bene, sarà una settimana impegnativa anche perché c'è da preparare l'appuntamento con la Juve, immagino che insomma ci sia parecchio lavoro, eh? Sempre te. Massimo, posso fare un'ultima domanda? Sì, poi dobbiamo andare da De Rossi che ci aspetta. Vedi te. Visto che siamo in argomento, il numero 2, medaglia d'argento, se la becca il dribblomane Massimiliano Allegri. Ma no, non posso commentare una cosa che non ho sentito. Posso solamente dire che dopo 8 giornate abbiamo fatto 7 punti. Sette punti, sono ancora allenatore del Milan, sto facendo, credo, un discreto lavoro da quando sono al Milan e io sono contento di quello che sto facendo. Dribbling via, Gianni da Udine, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Io chiamavo prendendo spunto dalle partite delle Final Eight di Coppa di Pallacanestro. Sì. Cambiando sport. Sì, e poi faremo sentire voci anche di quello, anzi tra pochissimo. Ecco, io mi chiedo come mai, ma questo non è che sia successo solo in queste partite, come mai gli arbitri tendono a non fischiare i passi in partenza per interminabili minuti, soprattutto ai piccoli, e poi a un certo punto nelle partite, quando meno te lo aspetti, magari quando una palla diventa fondamentale, cambiano metro. Cominciano a fischiare i passi in partenza. Allora io ho giocato per quel poco che posso capire, al tempo ci si allenava proprio nel tendere a portare il tuo avversario sul quale difendevi a partire incrociato piuttosto, certo, che di mano destra per fargli fare i passi. Ma se i piccoli arrivano qui in Italia, soprattutto gli americani, e possono fare passi quando vogliono, questa è una cosa che sarebbe più logico togliere la regola, come no, in America, e non si fischia più. No, ma in realtà in America è caduto in desuetudine, non è che è stata tolta. Il problema vero è quello che diceva lei prima, cioè il metro arbitrale deve essere lo stesso dal primo all'ultimo minuto, quindi se si fischiano passi di partenza si fischiano dal primo secondo fino al quarantesimo minuto, fino a quando suona l'ultima sirena. Questo è il vero problema. Allora, già che siamo in argomento, nel weekend è successo anche questo, le Final Eight di Coppa Italia chiuse con la quinta vittoria consecutiva di Siena, e allora noi vi facciamo sentire l'allenatore che ha vinto da capo allenatore, prima vittoria, cioè Banchi, ma prima di lui il miglior giocatore della partita, cioè Hackett. Incredibile, no. Se penso che 12-13 anni fa guardavo Pittis massacrare la mia Scavolini, la Virtus storica di Ginobili, battersi a Forlì, e adesso oggi sono io qua e posso dire di aver vinto qualcosa. Per me, che amo la pallacanestro, è tutto, è una sensazione importante, particolare, che dedico a tutte le persone che mi hanno aiutato, ai ragazzi a Pesaro, ai ragazzi di Siena, che è un momento particolare per tutta Siena. Non so cosa dire, sono felicissimo. Tutti convocati. Tutti convocati, sempre e ogni giorno, 800 24 00 24. Forza ragazzi, datemi una svegliata, è lunedì. Messaggi 349 238 6666. Poi se Giampaolo da Piacenza mi telefona, io lo convoco quando vuole e mi spiega il senso di questo messaggio: il mondo del calcio in Italia è malato perché siete malati voi dei media. Mi scriva se pensa che sbaglio. No, lo dico, penso che sbagli, perché siete complici. Ma complici di che? Ci limitiamo a raccontare, no? Ci mancherebbe mettere in sordina certe cose. Ci limitiamo a raccontare quello che vediamo, quello che succede, magari a dare la nostra opinione, condivisibile o meno. Se non è condivisibile, ne discutiamo, non c'è nessun problema. Allora, sul primo gradino del podio delle dichiarazioni domenicali finisce Daniele De Rossi. È sempre un po' sopra le righe, diciamo, cerchiamo di passare avanti, anche perché un uomo di, credo, quasi 60 anni e non mi permetto, però anche prendere l'applauso della curva, prendere questo populismo, prendersi gli applausi di quello che fa il dito medio al giocatore in campo è un po' imbarazzante. Io, insomma, se arrivo a 50-60 anni così mi farei delle domande seriamente, anche perché viene da episodi non migliori di questo. Sì, non so se Delio Rossi ci sente, nel caso se vuole replicare, poi salutiamo De Rossi. Comunque per l'esattezza ho 52 anni, non ce n'ho 60. Questa è la replica di Delio Rossi a Mediaset Premium, precisa l'età. Insomma, il commento di De Rossi è molto duro, però non dimentichiamo che De Rossi naturalmente non ha 52 anni nemmeno, e tantomeno 60, però chi è senza peccato scagli la prima pietra. Oggi questo detto può essere strettamente d'attualità. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, sono un peccatore anch'io. Anch'io, bene, lo confesso. Siamo tutti peccatori. Siamo tutti peccatori. Il Pupone invece sta invecchiando, secondo me, perché se in un'altra epoca, in un altro momento, uno Svaldo qualunque andava lì a togliergli dalle mani il pallone del rigore del pareggio, il Pupone gli staccava un braccio. Beh, c'è un'immagine che abbiamo preso, rallentato, che racconta tutto, no? Della, sì, faccia di Totti con le mani sui fianchi e l'espressione piuttosto perplessa. Stasera, tra l'altro, a 11 su Italia 2, Italia 1, la faremo vedere. Parleremo anche di molte altre cose, no? E io credo che sia questo assolutamente il tema. È chiaro che alla fine Osvaldo quel rigore se l'era procurato, mm-hmm. E se poi andiamo a vedere i numeri in carriera dal dischetto di un giocatore meraviglioso come Totti, non è uno che non ne ha mai sbagliato uno. Quindi, cioè, qui non è un discorso di decisione tecnica, no? Semmai di gerarchie, però. Ecco, l'aspetto inquietante è questo, cioè la mancanza completa di disciplina. Dove un giocatore si procura un rigore e per il semplice fatto di procurarselo lo tira. Tra l'altro lo tira, ti dico la verità, insomma, in quell'istante io penso che tutti a Roma, non solo a Roma, hanno pensato: ecco, se adesso Svaldo tira questo rigore e lo sbaglia, a Roma se ne parla per mesi. Sì. Quello che è successo. L'ha sbagliato, ma non di poco. Svaldo, diciamo, faceva molto più comodo non procurarselo quel rigore. Era stato bravo a procurarselo e faceva meglio a non procurarlo. E poi, tra l'altro, insomma, tutto questo finisce anche per condizionare il giudizio sulla partita, che secondo me invece ha mostrato dei segnali di ripresa da Roma. Cioè, Roma ieri ha giocato bene per 60 minuti, poi ha palesato le solite difficoltà enormi, è stata tradita dai, tra virgolette, nemici di Zeman, anche se magari non erano nemici. De Rossi ieri ha parlato molto chiaramente da questo punto di vista, però proprio i giocatori come Stekelenburg e come lo stesso Svaldo, che avevano avuto qualche problemino con Zeman, Ieri poi hanno fallito, però a me è sembrata una Roma diversa, sicuramente migliore rispetto al passato. Beh, una Roma che Andrea Zoli ha schierato con i senatori, con i giocatori, magari anche quelli che guadagnano di più. Era una Roma più normale rispetto a quella. Sì, era una Roma più normale che ha costruito tante occasioni, poi non ne ha approfittato, è successo di tutto. Alla fine la Samp ha vinto meritatamente, perché sicuramente sarà molto più cinica, però insomma credo che uno magari che non ha visto la partita dice andare Roma 3-1 e pensa che sia stato un ulteriore passo indietro, invece secondo me la Roma ieri per un'ora ha giocato bene. Sì, non, però è corretta la risposta di Andrea Zoli quando gli dicono non sarà questa una settimana facile, domenica c'è, anzi sabato c'è la Juventus, e la sua risposta è fa un po' te. Ma sì, ma sicuramente, insomma io credo che l'ambiente di Roma sia magnifico, ma chiaramente nei momenti difficili diventa anche un'arma a doppio taglio, nel senso che comunque il carico di pressioni è enorme. Sì. In questo momento c'è chiaramente un problema societario, di disciplina, di autorità, è un problema che sta venendo fuori secondo me con grande chiarezza, e adesso insomma la Roma si trova secondo me a dover salvare la stagione. Sì. Secondo me l'Europa League è ancora un obiettivo possibile, e poi l'anno prossimo però ci devono essere idee molto chiare, tutti si devono assumere responsabilità, perché sicuramente Zem ha commesso degli errori, ma non è stato l'unico a sbagliare. No, quando... certo, ma lo sai, Pierluigi, però mi sorprende che uno scafato, navigato o sgamato, come si dice a Milano, come Baldini, si sia fatto scappare di mano la situazione, o comunque abbia commesso dei chiari errori. Forse Baldini, con le esperienze che ha avuto, anche molto belle, molto importanti negli ultimi anni, aveva un po' perso il polso, con tutto rispetto ovviamente per il Real Madrid, dove tra l'altro era stato con Capello, che aveva un rapporto pessimo con Calderon, che lo licenziò nonostante lo scudetto vinto. Io ero stato testimone oculare della cena dello scudetto con Calderon che entra e non saluta, un ambiente caldissimo. E poi anche nella federazione inglese sicuramente c'erano stati tutta una serie di problemi, più che altro extracalcistici, con i gossip, i tabloid, il caso Terry, eccetera. Però dal punto di vista forse della disciplina dello spogliatoio e della società prima e della Football Association dopo, Baldini aveva lavorato in un contesto più facile di quello che ci può essere ovviamente con le tensioni e con la voglia di vincere che c'è a Roma, dove c'è una piazza, una tifoseria che ha giustamente voglia di tornare a obiettivi importanti, e soprattutto dove è stato venduto ai tifosi un progetto secondo me interessantissimo, con mille aspetti interessanti per il futuro dallo stadio in poi. Sicuro. Ma che arriva dopo una gestione, quella dei Sensi, che negli ultimi anni era stata resistenza assoluta, però intanto aveva portato risultati, perché la Roma è stata due volte apertura allo scudetto. Certo. Senti, un'ultima cosa che non c'entra con la Roma, leggo da più parti che Balotelli e Del Shaarawy insomma cominciano a manifestare qualche problema. El Shaarawy sarà anche stanco, però non lo so fino a che punto si può adattare a fare il cavalier servente di Sua Maestà Mario. Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, perché è chiaro che El Shaarawy ha le caratteristiche e l'ha dimostrato sempre quest'anno, per poter lavorare tanto per la squadra in fase di non possesso, recupera tanti palloni, spende mille energie. Mm. E ciò nonostante segna tanto, però nelle ultime partite mi sembra che la sua tendenza a giocare al servizio di Balotelli e di sacrificarsi sia venuta fuori abbastanza chiaramente. Il Milan farà i conti alla fine. Balotelli secondo me è un talento mostruoso, enorme, grandissimo, è la speranza del calcio italiano. Non è ancora secondo me il miglior giocatore al mondo nel giocare con i compagni, cioè ancora deve crescere da quel punto di vista, e deve crescere tanto. Però insomma mi sembra che l'impatto di Balotelli sia stato buono, e credo che Shaarawy ed Allegri qualche correttivo lo troveranno. In questo momento secondo me il dubbio e la domanda è pertinentissima, cioè l'idea che con Balotelli e Shaarawy debba defilare troppo la sua posizione ed essere meno decisivo è un pensiero che dopo aver fatto Cagliari-Milan di ieri ho molto chiaro nella testa. Penso che ci lavoreranno sopra e troveranno delle soluzioni. Chiaro che il talento di Balotelli più quello di El Shaarawy, se riesci a sommarlo, poi hai veramente in mano il questo futuro. Questo è chiaro, sono d'accordissimo. Grazie Pierluigi, un abbraccio. Ciao. 800 24 00 24, tutti convocati come sempre, a partire da Paolo da Genova. Paolo? Sì, pronto, buongiorno, ciao Carlo. Ciao, nevica lì? Ciao. Qua nevica abbastanza forte, sì. Ascolta, niente, dimmi. Io ieri ero allo stadio e ho visto una buona Samp, devo dire. Ottima Samp. Poi ora ne sposta abbastanza grossa, però piena di forte. E secondo me Sansone ieri mi ha ricordato un po' Messi. Cosa ne pensi? Ma speriamo. No, mi sembra tanta roba, insomma, ha giocato una grande partita, la Sampdoria è diventata con Deglio Rossi, che continuo a pensare sia uno dei più bravi allenatori italiani, è una squadra che è diventata una squadra seria, che ha del talento, ha della gioventù. Da lì a fare paragoni blasfemi, oggi non è il giorno, Paolo, oggi non è il giorno di paragoni blasfemi, per l'appunto. Sansone come Messi mi sembra un po' tanta roba, se devo essere sincero. Marco, sì. Milano. Sì, ciao. Ciao. Volevo dire una cosa di 38 secondi, possibilmente. Due settimane fa andavo a Madrid per lavoro. Sì. Ho avuto la fortuna di andare a vedere Real Barcellona con degli amici con cui ero là per lavoro, semplicemente entrando nel sito del Real Madrid, acquistando i biglietti come una qualsiasi persona normale, senza che mi venisse chiesto a che ora dovevo andare in bagno. Ho la tessera dal Milan dal 25 anni. Io ritengo che fin quando il sistema dirigenziale a livello appunto di dirigenti di sport, di giornalisti, permetta a Delio Rossi, che è un allenatore straordinario, di fare la figura che ha fatto ieri, andando in televisione dicendo che non era successo nulla, quando poi le immagini hanno immortalato quel gesto vergognoso che ha fatto dopo una partita vinta 3-1, questo sistema continuerà a non funzionare nella maniera corretta, perché ripeto, io vado allo stadio per divertirmi da 25 anni, non sono mai andato in curva in vita mia, e penso che sia doveroso poter fare così. Ritengo che questi atteggiamenti devono essere assolutamente non soltanto criticati, ma non debba essere permesso al signor Delio Rossi di continuare a fare questo tipo di lavoro dando questi esempi negativi. No, gli si può permettere di continuare a fare questo tipo di lavoro con le adeguate sanzioni. Certamente, ma le sanzioni non devono essere semplicemente chiedo scusa di non andare in panchina la domenica, devono essere probabilmente di non poter allenare per un mese, di non poter andare a dare il quotidiano esempio anche a dei ragazzi di 20 anni e a dei tifosi che ieri hanno visto la partita, tifosi stupidi della Roma, che ovviamente non troveranno occasione prima o poi per cercare di vendicarsi sulla, in qualche maniera. Sulla congruità e sulla applicabilità delle sanzioni possiamo discutere all'infinito. È chiaro che il discorso che tu hai fatto è partito molto da lontano, nel senso, la civiltà che c'è in altri luoghi d'Europa, le strutture che ci sono, la facilità di accesso ad uno spettacolo sportivo che esiste in paesi molto più evoluti del nostro, quando noi ci troviamo di fronte ad una situazione per cui non sai ancora, il venerdì pomeriggio alle 5 non sai ancora dove si gioca la partita di Cagliari, quindi mi sembra che il senso sia tutto lì. Poi da lì siamo andati su Deglio Rossi e il discorso si fa lunghissimo. Tutti convocati. Ringrazio Marta che mi dice: sei un cretino che cerca a ogni costo la critica e lo scandalo. In due partite Balotelli ha sempre cercato il faraone. Marta, non sto dicendo che non abbiano voglia di giocare insieme, se sono cretino io, e può essere, certamente non lo è di sicuro ad esempio Mario Sconcerti, che scrive sul Corriere della Sera il suo corsivo, che condivido: l'arrivo di Mario ha oscurato il faraone stanco, quindi non è una polemica gratuita, è anche una considerazione tecnica, quindi è una considerazione tecnica anche molto interessante secondo me. Allora, notizia dai mondiali di Schladming, super combinata: tre azzurri nei primi 10 posti dopo la prova di discesa, Paris quinto, Marsaglia nono, al comando l'austriaco che prevede, dunque, al comando l'austriaco quale? Non so. Innerhofer è terzo, la manche di slalom alle 18:15, quindi lotta per le medaglie apertissima. Rita, Roma, buonasera, anzi buongiorno e grazie. Rita da Roma, non c'è. Sì. C'è? Sì. Eccola qui. Buongiorno. Se vuole parlare io le lascio la parola, Mi dica tutto. Non si emozioni, non metta giù il telefono. No, mi attaccate in faccia. Mi succede sempre così con le donne. No. Incredibile. Allora andiamo sulla Andiamo sull'Oscar del gol. Ma quale può essere l'Oscar del gol se non quello segnato senza una scarpa? Vidal, come l'ha messa giù? Con il tacco Vidal, una grande giocata. Vidal ancora, il dribbling, Vidal l'appoggia, Alessandro Madri. C'era un paio di juventini che deve, ho dovuto triplare, e l'ultimo di quelli due mi ho preso al tacco al piede destro, e poi io sono stato davanti alla porta e ho sentito che la scarpa non è messo bene sul piede, e quando ho voluto tirare ho buttato via la scarpa. Allora piede nudo ho calciato, perché era solo davanti alla porta. Ho trovato un posto bene sul piede e è andato dentro. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io. Tu hai un dono. Abbiamo sentito anche il racconto del precedente, che qualcuno o molti ricorderanno, cioè Elkjær che segna in Verona-Juventus un gol proprio come ha fatto Madrid l'altra sera, senza una scarpa. Meraviglioso. Allora, ma basta con tutti questi ipocriti. Rossi non ha fatto niente di grave e lei non faccia il solito predicatore da due soldi. È patetico, mi scrive un ascoltatore. Allora, se è così, caro ascoltatore, dita medie alzate in tutti gli stadi d'Italia alla prima occasione, ok? Vi va bene così? Poi ne parliamo. Massimo, Ascoli Piceno, buongiorno. Carlo, buongiorno, grazie della convocazione. Ha fatto niente di grave. Allora, vale. Allora, abbiamo sdoganato la rissa intorno all'arbitro, abbiamo sdoganato il dito medio, cosa sdoganiamo ancora? Non lo so, forse il mio giudizio è condizionato dal fatto che sono laziale, particolarmente affezionato all'allenatore, un personaggio sanguigno. Io credo che episodi che mi infastidiscono durante una partita ce ne siano altri, insomma, tipo le eccessive proteste, i fallacci, le simulazioni. Per un amante del gioco del calcio credo che queste siano le cose peggiori. Poi che abbia sbagliato, sì, Massimo, rosso, però lei si rende conto, allora lei si rende conto, adesso io non voglio, non sono neanche nelle condizioni di stigmatizzare più di tanto, di fare predicatore, l'ho detto mille volte, un campo da calcio non è un ufficio, è un contesto molto particolare in cui non possiamo ricondurre i comportamenti della vita di ogni giorno. Però lei si rende anche conto che purtroppo gli stadi italiani sono popolati da gente che va lì e canta, come è successo ieri sera a San Siro di nuovo, non esistono negri italiani. Quindi quel dito medio alzato, in valore assoluto lei mi dice gli episodi più gravi sono altri, quel dito medio alzato è un cerino in mezzo agli ignoranti. È per questo che secondo me è rischioso, è pericoloso, è brutto, è fuori luogo, è da evitare. Questo per senza questo. Nessun dubbio, io sono allora, perfettamente io sto parlando, d'accordo. Esatto, però. Io sto parlando di questo, poi il dito medio, anche lì alzi la mano, non il dito, chi non lo ha mai fatto, magari in mezzo al traffico, magari in situazioni di particolare esasperazione, magari in altri contesti, però non in altri contesti in cui ci sono N deficienti che pronti a studiare una risposta alla prossima occasione. Quindi è questo il senso. Salvo da Catania. Salve Carlo, grazie Salve. Per l'opportunità. Buongiorno, ciao. Solamente tre cose. Sì. Allora, la prima, Rossi secondo me è scandaloso dopo, sempre scandaloso e comunque non assolutamente giustificabile il gesto, ma a maggior ragione dopo il fattaccio di Aic. Cioè là secondo me sei osservato speciale e se dovresti dare assolutamente l'esempio. Seconda cosa, Campagnaro l'Eurogol secondo me, quello che, ma per carattere, per voglia, per tutto, e sono d'accordo con te quando dici che Mazzarri assolutamente eccezionale. Bravissimo. Poi, ma perché ha mandato un segnale, non ci arrenderemo mai. Esatto. Terza cosa, secondo me più che El Shaarawy io guarderei un po' il discorso Pazzini, cioè totalmente oscurato, totalmente ormai messo. D'altra parte bisogna fare, d'altra parte Salvo, bisogna fare delle scelte. Se arriva un centravanti come Balotelli, insomma, però, diciamo, è chiaro che negli ultimi Pazzini stava sicuramente dando quell'apporto importante. Ha fatto tanti gol. E poi, perché sono di parte, solamente se potrei dire una parola sul grandissimo campionato del Catania. Quasi non servono, perché il Catania è una meravigliosa squadra di calcio. Quindi non servono quasi parole, basta guardare i risultati in corrispondenza con l'organico. Silvio da Napoli, velocissimo, e poi chiudiamo. Molto veloce. Allora, intanto preferisco un dito alzato, anche se è negativo, ad uno che si topa e mi fa vedere che vince 7 tour, oppure le volate come l'amico che abbiamo capito. Allora almeno quello, il dito era il suo, e l'ha fatto vedere a tutti. C'è gente che fa delle cose molto più meschine. Ma non mi sembra un parallelo, non mi sembra comunque sbagliato. Non è questione di preferire l'una o l'altra porcheria, eh. È chiaro che una è una porcheria meno grave di un'altra, ma sono cose un po' differenti. Eccolo qua, il mio sbagliando comunque. Poi l'altra cosa molto brevemente alla nazionale, ma tutti qua è vero, anche voi giornalisti dite sempre i giovani. Prandelli mette i giovani in nazionale. Sì, però sono troppo giovani, allora è contraddittorio la cosa. Meno male che c'è stato Prandelli che fa giocare i giovani. Ma sono il primo a dirlo, finalmente vediamo una nazionale ringiovanita. Io questo non mi assumo la paternità di questa considerazione che non mi appartiene. Grazie Silvio, alla prossima. Allora, noi salutando Franco Piantanini, autore di questo programma, e Roberto Scaltritti in regia, vi facciamo sentire un'ultima voce del weekend, a tutti gli argomenti che riprenderemo nei prossimi giorni, che è quello delle solite ragazze d'oro, Errani e Vinci, che ci portano in semifinale di Fed Cup. Buongiorno a tutti. Penso che il gruppo e la nostra coppia di doppio sia venuta fuori alla grande oggi. Vincere un doppio sul due pari è il massimo, perché comunque dopo due giorni o anche dopo una settimana comunque di allenamenti, di voler vincere l'eliminatoria, arrivando due pari abbiamo sofferto e siamo riusciti a vincere. Beh, un po' di pressione, perlomeno io l'ho avvertita, ecco, anche comunque i crampi di ieri erano dovuti anche un po' allo stress e alla tensione, perché volevo a tutti i costi vincere, ecco. Sì, leader, ma noi non ci sentiamo leader, ecco. Ripeto, il nostro compito era quello di vincere, di portare a casa la vittoria, ci siamo riuscite e siamo molto contente. Un bocca al lupo a Sanremo. Dopo non so, perché nel mondo dello spettacolo magari fanno mille scongiuri, i nostri in bocca al lupo, sono un po' superstiziosi. Un in bocca al lupo sincero. Merda? Merda. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Io sognavo montagne.